later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, fabbrica di polli, la teoria della relatività fa ridere i polli. Kappa e Drago si sintonizzano sull'unica emittente che riescono a captare. Annuncio molto importante. Il regime di odiato Mullah Sadhar ha crollato sotto spinta ideale islamica del popolo Rekmen. Guida di nazione è stata affidata gloriosamente a generale Sparahari, che assume su di sé tutti i poteri consentiti da nuova costituzione approvata stanotte dal Consiglio di Ulema. Costituzione statuta sul foglietto giallo post-it scritto piccolo e recita: Sparahari fa quello che vuole. Lunga vita, generale Sparahari, e impiccagione certa e immediata per infame bestia selvaggia Mullah Sadhari. Io sono stesso speaker di prima, sono pagato per leggere fogli gialli, posti scritti piccoli, da destra, da sinistra, e perciò non ho subito vendette da parte di nuovi capi di Stato. Arkmenistan Unito! E ora musica classica per sottolineare avvenuto colpo. In Arkmenistan, naturalmente. Capito, Kappa? È un golpe dietro l'altro, anche in Irkmenistan, dove pure c'era un governo col pugno di ferro. Ora, al posto del mullah hanno il generale, sai che differenza? E no, eh? Drago, quando un militare sostituisce un religioso a capo di una nazione, allora qualche speranza rimane. E c'è una bella differenza, sì, perché coi militari, alla fine, puoi sederti intorno a un tavolo e discutere di cose concrete, pratiche. Sì, tipo... Allora, se vuoi evitare di essere invaso, lascia entrare nel tuo paese 35 aziende della mia nazione e fare tutto il business del petrolio, ok? In più tolgo anche tutte le mine da quel famoso valico di frontiera che usano i bambini per andare a scuola tutte le mattine. Siamo d'accordo? Certo, invece se devi trattare con un religioso che sta a capo di una teocrazia, non c'è verso di parlare di cose concrete, non c'è verso. Perché quelli sono tutti rivolti all'aldilà, capito? Non gliene frega niente di far morire centinaia di soldati, di civili, non gliene frega niente se salta in aria un ospedale, una scuola, un palazzo. Quelli rapiscono, sgozzano e non hanno paura perché sono dalla parte di Dio, hai capito? Se tu sei un infedele non puoi far altro che sperare che non ti taglino la testa. E a noi qui invece tagliano la testa, infedeli o fedeli, altro che genocidio. Qui prima o poi voglio vedere la Del Ponte che viene a prendersi l'amministratore delegato e se lo porta all'AIA, alla corte che giudica i crimini di guerra. Ma quale guerra? Quale Del Ponte? Sì, eh. Ma voi siete polli, noi siamo uomini. Non c'è nessuna legge che vieta di concentrare migliaia di polli in uno stabilimento e poi passarli alle armi uno per uno. Tranquilli, che un giorno o l'altro ci sarà la Norimberga degli animali. La cosa? La Norimberga degli animali! Allora, deputato Kappa, si alzi. Sì. Lei è accusato di aver mangiato nella sua vita un numero imprecisato e imprecisabile di animali. No. Polli, conigli, vitelli, maiali, agnelli, capretti. Vabbè. Conferma? Sì, ma non lo sapevo che poi mi processavano, se no non l'avrei mica fatto, insomma, ma avrei mangiato l'insalata. Non importa, adesso noi siamo il tribunale e lei l'imputato. In nome del potere che mi è stato conferito dal tribunale degli animali, condanno l'imputato K alla pena capitale da eseguirsi immediatamente per sbranamento da parte di belve feroci. Ma come? Silenzio! La corte ha deciso! Ah, no! Feroci, no! fabbrica di polli. Lunga vita di generale Sperare! Interrompiamo la trasmissione musica classica di Golp per annunciare che Mullah Salahar ha avuto fine casa morta e penzola con gambe in botola profonda 3 metri che sotto ci sono topi da fogna pronti a mangiare suo cadavere. La trasmissione di Radio Rakhmanistan, ex Radio Salahar e futura Radio Sparahar continuano con fiction radiofonica 100 moschee, seguita da altra fiction radiofonica Un posto all'ombra dell'oasi, seguita da altra fiction radiofonica ancora CSI Islamabad. Buon ascolto con il programma di Radio Rakhmanistan. La fabbrica di polli. Beh, il palinsesto è cambiato completamente. Sì, hai visto? Prima c'erano lezioni su come farsi esplodere su un autobus israeliano, uccidendo però solo gli ebrei e salvando gli arabi con quell'astuzia tipica, no, ti ricordi? Cosa? Del nastro adesivo che attacca solo da una parte. Quello, importante. Adesso invece che non c'è più un mullah, ma un generale alla guida della nazione, ci sono solo fiction. Solo più fiction tedesche. No, non tedesche, irkmene. Comunque fiction, vedi? È una svolta laica. Bisogna salutare questa svolta laica con il sorriso dell'ottimismo. Il sorriso dell'ottimismo che aveva Chamberlain di ritorno da Monaco. Never to go to war with one another again. Ma voi l'avete letta la fattoria degli animali? Ma scusa, interrogazione, sì, l'ho letta. Sì. Ah, ecco, perché dovete solo pregare che non ci sia in futuro una rivolta degli animali contro gli uomini. Sì, perché finora vi è andata bene che gli animali sono rimasti nella loro ignoranza e non si sono ancora organizzati. Vabbè, Pollo, ma cosa vuoi farci? Gli animali non si sanno organizzare, non gli piace organizzarsi, è così, è normale, e quindi si sono sottomessi all'uomo, lo dice anche la Bibbia. La Bibbia. Sì, ma adesso ci sono animali dotati di intelletto pari a quelli dell'uomo. Sì, e dove sono? Beh, davanti ai vostri occhi, no? Dove, scusa? Beh, ma guarda qua in basso, no? Sono io. Ma come tu? Ma dai, ma Pollo. E che c'è di strano? Ma scusate, sono mesi che mi parlate e ragionate con me. E sono un pollo. Questo vi sembra normale? Vabbè, ma tu stai qua dentro, non esci mai. Al massimo puoi cercare di organizzare una rivolta qua dentro. Però dubito che ci riesca, perché i tuoi colleghi polli sono tutti terrorizzati. Non so nemmeno se ti capiscono quando parli, guarda. Attenzione. Non crediate che io sia un caso isolato, Perché qui di polli senzienti ce ne sono tanti. Eccone uno. Tarek, che mi fai fare butta TV. Ma dai, con polli così non farai mai la rivoluzione. Non ne sarei così sicuro, ragazzi, no? Basta aspettare. Ah sì, aspetta pure. Le cose cambiano, non stanno mai ferme. Mentre voi siete un po' troppo statici, Pasta asciutta. E quindi tu pensi che Tarek invece pasta asciutta cambierà e diventerà un pollo intelligente? Ma no! Tarek non fa parte del piano. Vabbè. Io faccio parte del piano. Tarek è solo un incidente di percorso, una tegola che mi è caduta in testa, una croce che mi tocca portare. Ma il futuro è nostro, degli animali intelligenti. Scusate per interruzione di fiction, Dr. Hezbollah. Questa edizione straordinaria del Radio Rakhmanistan per aggiornare e annunciare che generale Sparahar ha sposato in un colpo solo un intero collegio di orfane di guerra e un totale di 426 donne tra i 13 e i 19 anni. Questo oggi, prima notte di nozze di generale, sarà seguita in diretta dai microfoni del Radio Rakhmanistan, nonché da equipe medica pronta a intervenire nel caso in cui generale abbia qualche problema di carattere idraulico. Che cosa succederà adesso? Le minacce del pollo in sbattimento sono soltanto il risultato del suo abuso di paroxetina o testimoniano un complotto ordito ai danni della razza umana? E se fosse la seconda che ho detto, sarebbe una cosa di cui dispiacersi? Pensiamoci e parliamone lunedì a mezzanotte su Radio 3 con il prossimo abbaccinante allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Giovanni Della Morte, Luca Gemma. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.